strano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Sono giorni di passione per Intesa San Paolo. Dopo la diffusione della trimestrale, il titolo ha perso in borsa il 22,56%. Solo ieri il 6,86%. Ma sul volto di Corrado Passera non si legge alcun segno di preoccupazione. I risultati sono buoni, grazie all'impegno di tutti. I confronti internazionali su liquidità, profilo di rischio e leverage ci premiano. Oggi Standard & Poor's ci ha confermato AA con outlook positivo, che è il più alto tra le banche italiane. Già, il mercato però non vi premia affatto. Ha mal digerito il dimezzamento dell'utile nei 9 mesi nonostante il dato normalizzato e depurato da attività straordinarie segni un aumento del 13%. Il nostro conto economico è solido, ribatte l'amministratore delegato Corrado Passera. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Vi ho citato l'inizio, le prime battute dell'intervista che il direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli fa in esclusiva per il Sole a Corrado Passera, numero uno del gruppo Intesa San Paolo. E ci sono tante cose, è una pagina intera, è pagina 5 dedicata a questa intervista esclusiva. Si dicono una serie di cose relative all'intervento sulla crisi, ma anche ai rapporti interni e conflittuali tra Passera e Modiano. Tra lei e Modiano, domanda Ferruccio De Bortoli, il direttore generale, il divorzio ormai è consumato. E così risponde Passera: in banca stiamo lavorando al prossimo piano di impresa e ci sono divergenze che stiamo approfondendo sull'imposizione organizzativa per rafforzare la banca dei territori nella prossima fase di sviluppo. E ancora, a proposito di Bazzoli, perché a un certo punto dice con una battuta Ferruccio De Bortoli, ma lei non era di sinistra, Passera, e lui dice la nostra banca ha collaborato attivamente con tutti i governi che si sono susseguiti in questi anni e così continuerà a fare sistema, fare da ponte tra privato e pubblico, tra imprese e università, tra profit e no profit, è parte della nostra identità e della nostra responsabilità. E lei andrebbe ancora a votare per le primarie del Partito Democratico? Non ho partecipato alle primarie del Partito Democratico. Questa è una rivelazione. Bazzoli la pensa come lei? Con i miei due presidenti, Bazzoli e Salza, abbiamo sempre condiviso, dice Corrado Passera in questa intervista esclusiva al Sole 24 Ore, condiviso ogni decisione che riguardasse la banca, le opinioni personali sono un'altra cosa. Ma anche su quelle c'è grande comunanza di valori. Il sistema duale della governance di Intesa San Paolo funziona? È complesso, ma ha facilitato un'integrazione molto veloce e consente controlli efficaci e pervasivi. E ancora su Tremonti, ecco, qui è chiaro che emerge da questa intervista quello che già si scrive da molto tempo, che un Passera che qualcuno dava schierato con il centro-sinistra, in realtà con la vicenda all'Italia è, come dire, a fianco del governo Berlusconi, e dice: scusi Passera, ma nel suo manuale del buon banchiere c'è scritto anche che si deve salvare l'Alitalia facendo più parti in commedia? Così risponde e replica Passera: non abbiamo svolto alcun ruolo improprio, forse invece stiamo contribuendo a dimostrare che con un po' di buona volontà si possono affrontare anche i problemi aziendali più spinosi, che per troppo tempo o per mancanza di coraggio sono stati lasciati marcire. E ancora sull'Air France dice Ferruccio De Bortoli: la vostra soluzione però rispetto a quella di Air France carica di contribuente italiano del debito della compagnia è proprio l'opposto. La soluzione CAIS carica dalle spalle del contribuente italiano una parte importante del debito della compagnia, che finirebbe invece tutto sui conti pubblici se Alitalia fallisse definitivamente, con altri costi sociali ed economici abnormi. Ecco, questa è la lunga intervista che viene fatta da Ferruccio De Bortoli a Corrado Passera sul Sole 24 Ore, e l'apertura del giornale è CDP rilancio su scala europea. la Cassa Depositi e Prestiti nella rete BEI di investimenti UE scaiola 400 milioni alle famiglie povere, questo sempre dal Sole 24 Ore. E ancora, credito più facile se migliora la raccolta, ed è Marco Onado, l'economista Marco Onado, a dire la situazione sembra lentamente normalizzarsi in alcuni mercati del credito, a cominciare da quello interbancario, ma il rischio che la crisi colpisca duramente il sistema produttivo è tutt'altro che scongiurato. Le indagini della Fed e della BCE mettono in evidenza che le banche hanno ristretto in modo significativo le condizioni di erogazione del credito, sia in termini di costo che di disponibilità, e questo ovviamente avrà un effetto, potrebbe avere quantomeno un effetto sulle aziende. Ecco, e ancora, poi l'apertura di Finanza e Mercati, il dorso finanziario del Sole 24 Ore, Unicredit di mezza l'utile, il titolo si rafforza in borsa. Unicredit chiude il terzo trimestre con un utile di 551 milioni, dimezzato rispetto al 2007, ma superiore alle stime degli analisti. La borsa preme il titolo, che chiude in positivo, più 0,65% rispetto ai cali degli altri titoli bancari che abbiamo visto. L'amministratore delegato Alessandro Profumo esclude altri aumenti di capitale. Risultati positivi anche per UbiBanca. Il sacco di Milano, sospetti. Perché l'amministrazione Moratti sta facendo approvare in fretta e furia un documento che prevede alloggi per la bellezza di 700.000 nuovi cittadini? Questo è quello che si chiede in prima pagina il quotidiano Il Riformista, che a quanto pare ha uno scoop, insomma, e la firma è di Marco Vitale, se non è un caso di omonimia. Marco Vitale è un noto economista milanese, appunto, che scrive: il Consiglio Comunale di Milano sta discutendo un documento che in una città civile non dovrebbe neppure discutere nella forma attuale, per mancanza di credibilità e di serietà. Il documento si intitola Approvazione della revisione del capitolo X10 regole del documento di inquadramento delle politiche urbanistiche comunali, ed è una specie di succedaneo al piano di governo del territorio. Un documento, questo, di grande importanza, intorno al quale dovrebbe aprirsi un grande dibattito, perché qui si intrecciano i principali temi strategici, urbanistici, ambientali, di qualità della vita della città. Nel timore di non riuscire ad approvare entro i termini di legge il complesso piano di governo del territorio, l'assessore all'urbanistica ha presentato urgentemente questo documento, che dovrebbe fare da ponte con il piano. Nel frattempo questo documento cerca di portare a casa alcune cose che interessano l'assessore e chi lo ispira, e qui il riferimento è chiaro, perché dice: il piano del comune è un regalo agli immobiliaristi. Questo scrive il quotidiano Il Riformista. Ancora, Donna Letizia e l'astuto colpo dei palazzinari, trucco: a Milano non arriveranno mai ad abitare altre 700.000 persone, mezza provincia di Brescia. Le case o non si costruiranno o resteranno vuote. Intanto il nuovo indice di edificabilità sistemerà i conti in deficit degli immobiliaristi. Questo sostiene Marco Vitale sul quotidiano Il Riformista. Adesso vedremo se su questo si aprirà un dibattito oppure no. Certo, diciamo, il tema è molto forte, e c'è anche una foto di Letizia Moratti con sotto la scritta "Cemento audere semper", insomma, ecco, un'accusa piuttosto pesante. Ora, se invece ci trasferiamo sul quotidiano Libero, troviamo un altro tema abbastanza delicato, che è quello che si deduce dal discorso che il ministro Giulio Tremonti ha fatto in un'audizione a proposito dei banchieri. E come titola Libero la prima pagina, chi sbaglia paga, banchieri in galera. Il ministro Tremonti avvisa dirigenti e manager pronti a aiutare gli istituti in crisi con prestiti obbligazionari, ma chi fallisce dovrà rispondere davanti alla legge. Ed è Oscar Giannino che si incarica di fare un commento: se una banca fallisce, i banchieri vanno a casa oppure vanno in galera. Giulio Tremonti non poteva non sapere che la sua scelta di usare un'espressione così diretta e forte ieri in audizione alla Commissione Finanza del Senato inevitabilmente chiama i titoli di tutti i giornali e telegiornali. Presa alla lettera, l'espressione va naturalmente calata nel contesto delle frasi che Tremonti stava pronunciando. Quella giuntina in galera ha due caratteristiche essenziali: esprime un giudizio secco e chiaro su chi porta la responsabilità gravità della crisi finanziaria ed è tale da suscitare l'inevitabile consenso di milioni di persone comuni nelle cui tasche sta mietendo strage la crisi dell'economia reale che della crisi finanziaria è figlia. E dice in conclusione Oscar Giannino su Libero: Tremonti non è diventato improvvisamente Di Pietro né un Robespierre che manda al patibolo i profittatori di guerra, ma ha voluto ricordare a tutti che è un po' singolare questo nostro paese in cui tutti i banchieri ci dicono che viviamo nel migliore dei sistemi bancari possibili, che non è vero che si restringono i prestiti alle imprese e che chiunque si lamenti delle proprie ingenti perdite è a qualcun altro che deve rivolgersi, ma non certo a loro, come dire, no, basta. Ecco, questa è l'idea che viene lanciata da Oscar Giannino interpretando le parole di Giulio Tremonti sui banchieri. Ora, se vogliamo cambiare argomento, dobbiamo andare al tema che poi è quello che il titolo di prima pagina di molti quotidiani. Vediamo La Stampa: sindacati spaccati, CGIL va sola. Parla Epifani: il governo vuole isolarci, Bonanni e Angeletti lo aiutano. Ecco questo il quotidiano La Stampa. Vediamo bene, vi è intanto una intervista a Guglielmo Epifani di Antonella Rampino. Ormai siamo al basso impero, il vertice senza di noi è un fatto gravissimo, è una bruttissima pagina, una cosa da basso impero. Angeletti e Bonanni da Berlusconi a Palazzo Grazioli senza di noi e con la Confindustria. Emma Marcegaglia avrebbe dovuto sollevare il problema della mancata presenza della CGIL, non riesco a capirla, forse è una fase di debolezza. È il giorno in cui la CGIL decreta lo sciopero generale per il 12 dicembre, ma anche il giorno dopo l'ennesima violenta rottura sindacale. Guglielmo Epifani è tra l'infuriato e il divertito. Infuriato perché questo è un copione già visto con il patto della lavanderia del 2001, eppure ripercorrono gli stessi errori. Divertito perché a Palazzo Grazioli è stato visto anche Luigi Angeletti, che aveva smentito di essere presente, e a traccheggiare era stato anche Bonanni. Ma qui lo sguardo cambia di nuovo. Abbiamo almeno il coraggio di dire che c'erano invece di collezionare brutte figure. C'è anche affidato a Pietro Garibaldi un commento: con tanti saluti ai lavoratori, questo è il titolo. Dice: la crisi economica e la recessione in arrivo colpiranno inevitabilmente i lavoratori italiani. La recessione dovrebbe essere un momento in cui chi rappresenta milioni e milioni di lavoratori mette da parte le proprie divisioni e cerca in ogni modo di rimanere unito. Non è esattamente quello che sta succedendo nel movimento sindacale italiano, che appare invece in questi giorni totalmente diviso, con tanto di accuse reciproche e attacchi frontali. Parlare di rottura appare quasi un eufemismo. Ieri la CISL ha ufficialmente dichiarato di non aderire allo sciopero generale della scuola previsto per venerdì prossimo. Quasi per rilanciare, quasi fosse una vera e propria partita a scacchi, la CGIL ha annunciato uno sciopero generale unilaterale, senza accordi con gli altri sindacati confederali. Un fatto davvero inconsueto, scrive Pietro Garibaldi sul quotidiano La Stampa. Ecco, La Stampa poi si occupa di un altro caso, diciamo così, di defezione dal centro-sinistra. Abbiamo visto, abbiamo sentito le battute, insomma, nell'intervista che Ferruccio De Vorto gli ha fatto a Corrado Passa di questo presunto, comunque già sollevato da altri giornali, spostamento del banchiere Corrado Passa dal centro-sinistra al centro-destra. Adesso La Stampa solleva un altro caso, lo strappo di Colaninno, addio al Partito Democratico, sì. E questo è Francesco Manacorda che scrive: questi del PD proprio non li capisco, dice Colaninno. Mi sono preso la responsabilità di condurre questa cordata, ma sulla vicenda d'Italia loro non fanno che attaccarmi tutti i giorni, con tutti i problemi che ci sono, non so davvero perché si concentrino su questa storia. Ecco, Colaninno dice: addio al Partito Democratico, è l'ora di Berlusconi. Il Cavaliere vuole salvare l'Italia tutti i costi, ed è Roberto Colaninno quello, ricorda Francesco Manacorda, che era stato definito durante la prima scalata a Telecom uno dei capitani coraggiosi, che quindi insomma diciamo era stato definito un imprenditore molto vicino al Partito Democratico. la stampa, come altri quotidiani, riportano la notizia forte di carattere internazionale che ci riguarda. Berlusconi si schiera con Mosca, lo scudo è una provocazione, dobbiamo evitare un'altra guerra fredda. E poi c'è un commento, un'analisi di Enzo Bettiza: nonostante Obama, la conclusione di Bettiza è che alla fine ci sarà da parte di Barack Obama una politica di in continuità con quella di George W. Bush, perché dice, insomma, scrive Enzo Bettiza, sarà bene ricordarsi che egli, cioè Barack Obama, ha trionfato con un programma tutto sommato meno radicale di quello di Hillary Clinton, e che il suo percorso non prelude comunque, soprattutto nella politica estera, a svolte o ribaltamenti epocali. La discontinuità con l'amministrazione Bush sarà dunque più formale che sostanziale. Le costanti fisiologiche della Repubblica Imperiale di Washington, anche senza Bush, rimarranno presenti e operanti con Obama. O, se vogliamo dirla fino in fondo, nonostante Obama e al di là di Obama. Vedremo se questa previsione di Enzo Bettiza sarà vera. Ora voglio rimanere sul tema, il tema che abbiamo analizzato, quello della guerra nei sindacati, divisi su tutto, si dice, qui è affidato invece la commento a Massimo Giannini. La sana retorica del sogno americano spinge Paul Krugman a evocare il prossimo avvento di Franklin Delano Obama e la possibile apertura di un nuovo corso rooseveltiano, ricco di speranza e proiettato nel futuro. Come vedete, una valutazione molto diversa. L'insana logica dell'incubo italiano ci costringe a fare i conti con un conflitto politico-sindacale fuori dal tempo e dalla storia, gravido di rischi e ripiegato sul passato. Questo scrive il vice direttore Giannini della Repubblica sul suo giornale. Di fronte alla tempesta perfetta dei mercati finanziari e dell'economia reale, una classe dirigente degna di questo nome in una democrazia seria e responsabile si darebbe un'unica missione: unire gli sforzi collettivi in una sorta di comitato di salute pubblica e concordare nei limiti del possibile e nel rispetto dei rispettivi ruoli le misure necessarie a fronteggiare la crisi, scrive Massimo Giannini sulla Repubblica. Ma in questa Italia arrabbiata e irresponsabile succede l'esatto contrario: tutto va in frantumi, la maggioranza rompe con l'opposizione, la CGIL rompe con il governo, i sindacati confederali rompono tra di loro, gli irriducibili rompono con gli autonomi. In questo quadro, in rapida decomposizione, l'unica cosa che resiste sono gli scioperi, che sono un costo per gli imprenditori, un sacrificio per i lavoratori e un danno per i consumatori. Il quotidiano La Repubblica invece affida a Sandro Viola un commento a quello che sta avvenendo sia sul piano internazionale, sia la dichiarazione di Berlusconi in Mosca provocata dallo scudo degli USA, e sia la sempre dichiarazione di Berlusconi subito la Turchia nella UE con la Lega che insorge. Sandro Viola scrive: non è stato fortunato il nostro ministro degli esteri onorevole Frattini, sostenendo avanti ieri che i buoni uffici di Berlusconi riporteranno il sereno tra Mosca e Washington. Aveva appena parlato infatti e subito i russi hanno respinto le nuove proposte con cui l'amministrazione Bush sta cercando di rendere più accettabile per il regime moscovita il progetto dello scudo spaziale, il sistema antimissilistico che dovrebbe essere montato tra Repubblica Ceca e Polonia. Quindi, come dire, insomma, per il momento il ruolo di Berlusconi non ha avuto un esito positivo. Solo un anno fa la politica era caduta nella polvere, scrive Dario Di Vicco, vice direttore del Corriere, sul suo giornale. Ora il titolo è La politica è tornata padrona, è un commento in realtà, un dibattito sul libro di Alesina e Giavazzi, Stato e Mercato. Dice ancora, scrive Di Vicco, nessuno si sarebbe minimamente sognato di assegnare agli uomini della casta una funzione salvifica e tantomeno nessuno avrebbe osato pensare nell'anno di grazia 2008 a un revival di ricette stataliste. Eppure le cose stanno proprio così. Si è consumato un inatteso ribaltone a causa, o se si preferisce in ragione, della grande crisi. L'economia è andata nell'angolo, la politica è tornata prepotentemente al centro del ring e fa sentire la sua presenza al punto da spingere due economisti di solido alfabeto liberista come Alberto Alesina e Francesco Giavazzi ragazzi a suonare l'allarme, a disturbare il nuovo manipolatore e a sfornare un altro pamphlet dopo il successo di Il liberismo è di sinistra, che nel 2007 ha animato per mesi il dibattito di politica economica. Il titolo del nuovo è La crisi. Può la politica salvare il mondo? Il punto interrogativo è puramente retorico, perché gli autori sostengono sin dalle primissime pagine che troppo Stato fa male, anzi malissimo. È una medicina che sul lungo periodo può uccidere il malato, specie se si presenta già debilitato come l'Italia. Ecco, questo intervento politico e culturale di Dario Di Vico sul Corriere della Sera per aprire un dibattito che è nell'aria, cioè il ritorno dello Stato nell'economia, che cosa significa e perché secondo questi due economisti è dannoso. Il Corriere invece ha affida a Franco Venturini un giudizio su quello che sta avvenendo tra Mosca e gli Stati Uniti. Scrive Franco Venturini: i russi sono bravi in molti campi, ma in uno sono imbattibili, nel riuscire a passare dalla parte del torto anche quando hanno ottime frecce al loro arco. È successo l'estate scorsa con la Georgia. Mosca e Blinken si provocavano reciprocamente da molti mesi, ma poi fu il presidente georgiano Shakashvili, mentre il mondo intero guardava le Olimpiadi di Pechino, a sbagliare i conti, bombardando l'Ossetia del Sud e i suoi peacekeepers russi. Mosca non poteva stare a guardare, pena la perdita di ogni credibilità regionale e internazionale, ma una volta superata con la mediazione europea la fase calda della crisi, il Cremlino avrebbe dovuto accontentarsi e invece non l'ha fatto. E anche oggi dice: ma ora accade che Barack Obama abbia trionfalmente vinto le elezioni USA, che manchino soltanto 2 mesi al suo insediamento alla Casa Bianca e che persistano in attesa di opportune verifiche le indicazioni emerse durante la campagna elettorale. Posizione intransigente sull'integrità territoriale della Georgia, peraltro realisticamente irrecuperabile, e maggiore possibilità sull'opportunità di schierare in Europa uno scudo antibalistico, la cui efficacia tra l'altro non è stata dimostrata. Per il Cremlino si tratta di uno spiraglio non da poco, di un'opportunità che andrebbe esplorata con la dovuta prudenza. E invece Medvedev che fa? Agita il bastone, rifiuta le proposte avanzate alla 25esima ora da Bush e annuncia che se Obama porterà a compimento il progetto dello scudo la Russia risponderà dislocando i nuovi Iskander nell'enclave di Kaliningrad. E questo scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera. E poi la cronaca di Obama chiama il Papa dopo il caso Staminali. Telefonata di ringraziamento di Barack Obama al Papa per le congratulazioni ricevute dopo la vittoria su McCain e per le preghiere. Lo hanno riferito fonti dello staff di Obama a Chicago. Però il tema forte, naturalmente non sappiamo che cosa si siano detti, ma che il tema forte è quello degli staminali, perché è su questa questione che poi era scoppiata un primo dissidio tra la nuova amministrazione, non ancora insediata, di Barack Obama e il Vaticano. C'è anche un Giannelli sul Corriere della Sera a proposito dell'unità sindacale. C'è il nonno Bonanni che racconta al bambino Berlusconi tutto contento: c'era una volta l'unità sindacale. Questo il Corriere della Sera. Il giornale continua su due campagne molto forti. Intanto quella a proposito del sindacato, lo strappo nel sindacato, ma in difesa della Gelmini. Caro direttore, scrive un lettore del giornale, sono un genitore milanese di 37 anni, mio figlio frequenta la quarta elementare. Da circa un mese, quando gli chiedo che cosa ha imparato a scuola, le risposte sono: ci hanno fatto fare uno striscione con scritto Gelmini vattene, ci fanno scrivere sulla lavagna Gelmini vattene, oggi gli insegnanti avevano una maglietta con la scritta Gelmini vattene. Con mio figlio cerco di sempre di non parlare di politica, ma a questo punto mi sono preoccupato di spiegargli tante cose. Oggi però sono decisamente nervoso, perché a scuola gli hanno dato un tema: cosa pensi della Gelmini? Cosa fare? Scrivere quello che gli hanno spiegato mamma e papà? Sì, ma se dopo tutti i suoi ottimo e distinto spariscono, scrivere che la Gelmini è una deficiente, sapendo che è falso? Gli ho detto di fare il tema evitando di esprimere il suo pensiero, ma mi rendo conto che per un bimbo non è semplice. semplicissimo, Alessio Monti, e dice, scrive il direttore Mario Giordano, se non avessi visto le foto dei cortei, che non, se non avessi visto quei bambini con scritti al collo e gli occhi bassi portati in processione come ostaggi della protesta, se non avessi visto la vergogna delle cartelle eccetera eccetera, dice, non ci crederei, e invece ho paura che sia tutto vero quello che scrive Alessio. Questo il il giornale pubblica anche un'inchiesta. Il magistrato è fuori ufficio, insegna a vendere l'olio. È il 22 gennaio scorso, Renato Martuscelli, professione sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania, esce di casa. Non va in ufficio, ma a Roma, dove lo aspettano per un seminario. 8 ore di lezione sul tema le fasi di commercializzazione dell'olio. Insomma, questo è l'attacco di un'inchiesta che dice che una parte dei magistrati non fa quello che dovrebbe fare. E se andiamo a vedere il titolo, il magistrato è fuori ufficio, insegna come si vende l'olio, l'Italia dei privilegiati, più di 1000 toghe hanno ottenuto dal CSM il via libera per consulenze esterne, persi 1375 giorni di lavoro in 6 mesi, a Napoli un giudice pagato per stare a casa. Questo viene scritto. E adesso rapidamente solo i titoli voglio vedere. L'unità, il luogo del delitto, qual è il luogo del delitto? È Palazzo Grazioli, residenza privata del Presidente del Consiglio, dove secondo l'unità Berlusconi vede a casa sua in segreto Angeletti e Bonanni, ma non Epifani. E poi vabbè, le dichiarazioni di Epifani di grande gravità. E il manifesto, meglio soli, sotto il pressing di Berlusconi e Marcegaglia, si consuma la rottura sindacale, stesso tema quindi, cena separata del premier, la leader di Confindustria Bonanni e Angeletti, Epifani un atto gravissimo. La CGIL proclama lo sciopero nazionale per il 12 dicembre, Loris Campetti parla dei due portaborse, con una accusa pesante ai due sindacalisti, mentre Norma Rangeli si occupa di Rai, il cavallo del sovrano, e il sovrano, si capisce leggendo l'articolo, è Silvio Berlusconi. Questo il manifesto, e con questa segnalazione mi dicono che il mio tempo è scaduto, quindi io vi saluto e vi do appuntamento a domattina.